10 Mi sta stretto lo stivale. Allora, rivediamolo. Dai. Rivedia, non sei. Dai. Schiarisci bene la voce, rivedia. esagerata. Va ora in onda. Sì. Va ora in onda. E allora ridiamo. Ripeti per bene. Va ora in onda. Mi sta stretto lo stivale. Ok. Ok. Sì. Ok. Dici ok. Non devi dire ok. Okay. Vai avanti. Dire, okay. Ok. Noi siamo zitti. Allora da capo. Shh, silenzio. Vai. Sì, silenzio. Diciamo noi silenzio. No, guarda, allora, ma sai che quasi ti do la password dell'user del sito e ti lascio controllare tutto. Ma silenzio. Silenzio. Ma questa è l'unica cosa. Parla. Che dico. Okay. Voce. Se sei una voce. Se non sei abbastanza intelligente da crearti un programma tuo, non è colpa mia. Sei una voce. Per cortesia, fai la voce. Ok. Va adesso in onda. Ora in onda. Ora. Adesso. È ora. Arrivata. Cambia pure, capito? Che stiamo io se lei cambia. È arrivata, capito? Addettazzi. Cambia le cose. È arrivata. Per bene. Yeah, seriamente, dai. Seriamente. Va ora in onda. Mi sta stretto lo stivale. Di Cremona Strazzullo. Perfetto. Dirige il maestro Corrado Parisi. È brava, brava. Brava. Parto lì. Grazie. Eccoci qua. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo. Mi sta stretto lo stivale Radio 2010. Salutiamo subito in regia il nostro mitico regista Corrado Parisi. Ciao Corrado. Buonasera. Questa volta c'è la voce un po' in flessione, no? Buonasera. Però mi si apre il cuore. Sì, salutiamo. Sì, ma perché è con noi, è sempre con noi. Allora, oggi notizione, sì, notizione proprio, notizione proprio, sì, il mondo gira intorno alle nostre notizie. Mi chiamano per sapere cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di caciocavalli. Addirittura! Caciocavalli bomba parliamo. Oh, oggi caciocavalli bomba. Una maestra pornostar. Ah, e questa potrei fare anch'io qualche nome di qualche mia professoressa. Un po' pornostar. Come le conoscere? Un po' pornostar. E poi abbiamo la nuova applicazione dell'iPhone, l'AI Mussolini. Questa è carina. Ne parleremo dopo. E poi il comune di Livigno. E non anticipo niente. Non anticipiamo niente. E partiamo subitissimo a razzo con la storia del caciocavallo bomba. Sì. Allora, Alessio, siamo all'aeroporto di Chicago. Abbiamo tre cugini di Rioniero Sannitico, Isernia. Sono stati bloccati dalla sicurezza dell'aeroporto, sai che ormai là. Sì, ormai body scanning, tutto questo. Stanno in crisi per tutto. Non si può fare quasi più niente ormai negli aeroporti. Non puoi portare niente, non puoi fare niente, devi andare nudo e va bene così. È anche giusto così, nel senso che quando qualcuno sale lì sopra che vuole far cadere un aereo, quando cade l'aereo è caduto. Hai ragione, però qua siamo proprio all'idiozia totale. Sì. Li hanno fermati, impanicati tutti quanti, perché? Perché avevano un caciocavallo di produzione locale. Hanno pensato che fosse una bomba. Qualcosa al plastico con le situazioni. Hanno scambiato un caciocavallo per una bomba. Questo è quasi peggio del bambino che viene fermato ogni volta perché ha lo stesso nome del terrorista. È vero, c'è un bambino che è un boy scout di 8 anni che viene fermato perché è omonimo con un terrorista. Però non potete fermare il caciocavallo. Vabbè che state in America e quindi non sapete niente di cibo. Che sono stati schifezze dalla mattina alla sera. Quello è buonissimo, ma invece di lo portavano loro. Sì, per ma mangiatelo soprattutto. Fate una bella caciocavallata. La caciocavallata. Tutti quanti insieme. Un poco di vino e vai così. E vai così. E poi a pilotare l'aereo. Tutti ubriachi. Tutti ubriachi, poi è chiaro. Ti dico che li hanno bloccati, perquisiti, impronte digitali. Mamma tampone. È brutto. Tampone bruttissimo. Altro caciocavallo. Qua parliamo proprio da auricchio. Sì. E saliva per l'esame del DNA. E tu immagini loro che facevano "It's Italian cheese, it's Italian cheese". E loro pensavano che fosse una bomba. No, ma poi hanno fatto la figura dei cioccolatai, perché hanno aperto il caciocavallo, hanno tagliato per vedere dentro che c'era. L'hanno anche annusato, magari sì, hanno chiamato i cani. Hanno chiamato i cani, hanno usato dei artificieri. Gente pericolosa, attentissima. Guarda, quasi quasi mi viene da dire non c'è male. Non c'è male non tuo, c'è in classe. C'è il caciocavallo, voi bloccate per i caciocavalli, ma siete pazzi. Vabbè, no. Chiudiamola qui, perché secondo me poveretti questi cugini hanno pure perso la coincidenza per colpa di questi americani paurosi per un caciocavallo. Paurosi, attenzione, un caciocavallo. Ma il problema è che ormai sono completamente in panico con questa cosa. Sì, ogni minima cosa. Giustamente è anche spiegabile sotto un certo senso, però dai, una volta che hai visto che è un caciocavallo, formaggio, cioè non gli fare pure il tampone. Il tampone, poveretto. Oltre danno la beffa, cioè, dai. Siamo arrivati al punto che se uno soffre di flautulenza, sì, scatta l'allarme, che ne so, attacco chimico nell'aereo. Sinceramente, qualcuno che ha attacchi di flautulenza a fianco a me nell'aereo, io non è che proprio ce lo vorrei. Sì, però capito. Anche lui ha il diritto di prendere l'aereo. È malato, okay. Cioè, meteorismo magari. Meteorismo ci può stare, non ha sì, mangiato pesante. Invece la bloccano tutto. Allarme chimico, esatto, attacco chimico, tutti quanti con quelle tutone per proteggersi. Per un semplice peto, una quella puzzetta. Scena terribile di quando è timore che a me mi ha sconvolto. Tutti quei tutoni, no? Che sono un bambino, sono animo senso. Andiamo avanti, raccontami allora, tu. Che la succede? Seconda notizia è intitolata Maestra Pornostar. E questa cosa già mi solletica. Come ho detto già prima, potremmo fare qualche nome, le scuole le abbiamo fatte tutte. No, quindi... vabbè, pure io ho dei nomi, però diciamo che non è il caso. Anche allora, se meno tutte brutte le maestre. Esatto, no, io avevo qualche maestra carina. Ma sì, maestra pare elementare, no, no, o professoressa? Professoressa. Ok. Beh, diciamo raccontaci, che raccontaci, raccontaci. Come sopravvivere al precariato che colpisce moltissimi insegnanti? Come si fa? Come si fa? Basta diventare una pornostar. Perché non ci ho pensato prima, sì, maledizione. Allora, immagina questa professoressa alla soglia dei 40 anni che semplicemente voleva guadagnare qualcosina di più. Cioè, comunque hai un sì, lavoro stabile, una vita normale, sì, però non ti basta. E che cosa ha fatto? Non ti basta, allora decidi di fare la pornostar, proprio di così, diventare... Così, proprio la conseguenza logica... Probabilmente ci doveva essere una base di... Diciamo che era già un po' maialetta da sì, lei, diciamo sì, che era un po' maialina... Quasi sicuramente... Scherzosa, maliziosa che non si ha... Io tra l'altro ho visto le foto... E com'è? Siamo in una radio, non le possiamo far vedere, no, certo, però... Com'è? È così. Così così, sì, quelle cose amatoriali, diciamo così. Si vede che non sono professionista, però mi arrangio. Sì, ma poi quelle cose un pochettino in là con gli anni. Ah, gallina vecchia fa buon brodo, però funziona questo. Le motto. Chiamano MILF queste cose. Ah, qua, MILF, però... sì, ma madre air fuck, sì, sì, mamma che mi farei. Però non. Secondo me non avrà un grandissimo successo. Poi, vabbè, però si è prostrata, si sa, diciamo si così. Sa, sì, si sa. Diciamo il che mercato, si è inchinata la crisi. Il mercato è imprevedibile. E lei si è messa a picco sul mercato, sì, a circa 90 gradi direi. Le volte. Dicono che sia molto brava negli orari. Questa poi era proprio. Vabbè, cazzo, e mi sembra che c'ha un nome bellissimo. Siamo una trasmissione culturale, non sì, il caso. Guarda, proprio mi piace, culturale. Mi piace ribadirlo. Dimmi il suo nome, qual è il nome? Michele Liu. È tutto attaccato, è Michelle Liu. Te l'avevo anche detto. Sì, però ho capito, è una cosa di non mi ascoltavi, stavo parlando di te. Michelle Liu. Trevigiana lei. Trevigiana, a Treviso c'è questa maestra, secondo me tutti gli alunni adesso che lo sanno, sì, oltre a, diciamo così, a liberare i propri ormoni, sì, saranno impazziti. Ma wow, quella mi insegnava l'italiano e poteva insegnarmi tutt'altro. Tra l'altro, la vera novità è che dice che il primo film lo girerà a San Valentino. Ah, oh, che romantico. Sì, è romantico. È proprio un cuore di panna. Sì, sì, sì, sì, sì, veramente una ci romantica. Sarà la panna, so che in quel film ci sarà la panna, molta panna, a morire. Disgustosa. Panna volontà, questa professoressa. Comunque, se hai bisogno di ripetizione, Michelle Liu, io sono pronto. Sì. Dai, andiamo avanti. La salutiamo. Ciao, Michelle. Cioè, anzi, se ci vuoi chiamare. Chiamare. Se mi vuoi fare una dedica nel film, se tu nel film, mentre stai nel momento dell'amplesso, diciamo che tipo ti tocchi il capezzolo sinistro, io so che lo fai per me. Grazie. Grazie. Saluti Riccardo Cremona. Saluti, grazie. Sì, Riccardo Cremona, la 2010. Grazie. Ok. Dai, andiamo avanti. Allora, l'altra notizia è una notizia strana, direi. Una notizia di tecnologia. Perché quella di prima era normale. Una notizia di tecnologia. Ma hai toccato nel costume tecnologia. E tecnologia, diciamo, no, del un abbinamento un po' strano. Sai che adesso gira tantissimo l'iPhone. Sì, cioè l'iPhone ormai è imbattibile ovunque. 700-800 euro per avere un cellulare touch. Sì, touch, tocchi tutto. Con migliaia di applicazioni. Fai di tutto, ho visto applicazioni. Puoi fare di tutto. Sì, di tutto. 700 euro e ti passa la... Sì, no, proprio mi passa la tra paura. Le tante applicazioni meravigliose, sì, tra cui i giochi, ricordo il gioco della pesca, sì, a me fa impazzire. Sì, Alessio passava serate anche diversi fondali, cose sì, strane, Alessio tempeste. Dico un piccolo scoop, un pettegolezzo. Diciamo che Alessio ha passato serate intere mentre noi chiacchieravamo. Ma perché i miei amici sono noiosi. Sì, a giocare al gioco della pesca sull'iPhone. Sì, cioè, ridicolo. Tu ti giri con l'amico che fa... che muove sto cellulare, perché devi anche muoverlo, perché quello sente anche le vibrazioni, cose del genere, per giocare con la pesca. Alle volte mi sento un po' solo, non è questo un buon motivo per sì, prendermi in giro. Comunque, vabbè, tutti quanti ormai comprano l'iPhone. Sì. Tutti. Sì. Anche tu, probabilmente. Io tra un po' posso l'acquisterò, esatto, sì. E che nascono applicazioni come se fossero funghi. Sì. Praticamente all'improvviso uno si sveglia una mattina e fa: ho fatto un'applicazione che mi permette di far finta di soffiare il naso. Fa solo il rumore, però comunque... avvicini l'iPhone. Che utilità. Va bene, andiamo. E soprattutto guadagnano un sacco di soldi. Eh sì, perché sono a pagamento. Uno fa una stupidaggine. Spendere dei soldi per l'applicazione che soffia il naso è veramente una baggia. La cosa grave è che loro te lo mettono ad un prezzo così basso che tu dici: vabbè, la prendo l'applicazione per far finta di soffiare. Che faccio? Non me la tengo l'applicazione di soffio il naso. Il problema è che poi magari lo fanno 3-4 milioni di persone, per cui però questa persona è ricca. Vabbè, domani faccio anche un'applicazione. Di quale applicazione stiamo dai, parlando? Andiamo nel su. No, non lo so, andiamo nel su. Che applicazione particolare? Ti dico soltanto che qualcuno rimpiange ancora la sua dipartita. La sua dipartita, sì, quindi lo chiamavano il Duce. Eh beh, facile. Stiamo parlando di Benito Mussolini. Sì, facilissimo. E niente, questa applicazione si chiama iMussolini. L'applicazione si chiama iMussolini. Esatto. Esatto. Cosa fa? Costa 79 centesimi. Guarda, un prezzone. E praticamente ci sono un centinaio di discorsi fatti dal Duce. Te lo giuro. C'è un'applicazione che sono discorsi del Duce. Esatto. E la gente che spitarola se ne fa. Ecco, questo è il dibattito. C'è qualcuno che dice. Questa applicazione inneggia al fascismo. E c'è qualcuno che dice invece: non è questo, non è inneggiare al fascismo. Vabbè, semplicemente lo utilizziamo un po' un per po motivo storico. Ma che storia? Ma che cosa te ne fai? Loro sostengono che uno sta, per esempio, che ne so, in Cumana. Sì. Questa nota corriera che sì, ci permette di raggiungere il centro notissima storico. E stanno lì e dicono: ho un esame di storia contemporanea. Adesso mi ascolto un paio di discorsi del Duce. Belli rilassati, dai. Belli sì, belli. Là, sì. Con le mani sotto la scena. Sì. Sì. Assolutamente. Sono contrari a questa questione del far polemica. Cioè, dicono: ma come vi permettete di accusarci di inneggiare al fascismo? Semplicemente di discorsi di Mussolini. Tra l'altro uscita a pochi giorni dal giorno della memoria. Sì, anche la Treccani mi sembra che adesso la vuole inviare perché insegna quindi, la storia. E quindi io non ho parlato. E io ho saputo che abbiamo in concomitanza con l'uscita dell'AI Mussolini sì, è uscito anche una nuova applicazione per iPhone molto più gettonata. Io ce l'avrò di sicuro. Stai per fare la battuta, ecco. No, è stai per realtà, fare la battuta. Abbiamo l'applicazione l'AI Corona. Non ci credo. Su uno dei nostri personaggi preferiti. Il mito. Perché hai capito? Lui è proprio così. Tu, quando sei lì in Cumana, da qualche parte, e vuoi incazzare, e vuoi essere arrabbiato con lo Stato, c'hai Fabrizio Corona nel tuo iPhone. Perfetto. E adesso lo mandiamo. Abbiamo un pezzetto di come sarà questa applicazione. Ma non mandiamolo in radio, ma facciamo subito un'applicazione. Chiamiamo i nostri amici bravi nel fare queste cose e facciamo un sacco di soldi. Sì, sai quanta gente si compra questa cosa se tu la fai adesso? Di Corona? Sì. Vabbè, anzi, allora, penso che dovremmo proprio tagliarla questa discussione. Allora, adesso ci copiamo tutti. Allora, pubblicità. Facciamo pubblicità. Copyright vabbè, di Radio 2010. Mandiamo un pezzo dell'applicazione futura di iCorona. Vai. Quello che ho subito in questi 80 giorni calda, da parte di tanti, da parte dello Stato, calda, ma soprattutto calda, da parte calda, della Procura di Potenza, sì, è vergognoso. Ma quello che ho subito oggi, ancora, sempre dalla Procura di Potenza, è ancora più vergognoso. È vergognoso. No, vergognoso. Lui è veramente arrabbiato. Capito? Tu così, tu ti carichi, sei là tutto rilassato, e invece così ti arrabbi, sei pronto per agire contro il sistema. Contro il sistema e contro questo talebano, sì, maledetto talebano di nome giustizia. Sono sentito Dello stato. Sì, tu ti carichi, capito? No, senti, sì, così tu ti puoi sentirti anche tu. Facciamolo, Fabrizio basta. Corona. Facciamolo. Chiamiamo il nostro Fabio Milano, che tra l'altro tra qualche giorno inizierà un programma tutto suo proprio su questo argomento. Chiamiamolo, facciamoci fare un'applicazione, insomma, guadagniamo un po' di soldi. Sì, hai ragione, con qualche... facciamo applicazione. Sono sentito ancora, il nostro regista è innamorato. Ostaggio dello Stato. È impazzito. DJ Corrado, che cosa ne pensi del nostro ostaggio dello Stato? Silenzio, non rispondo, oddio. DJ, sì. Per favore, ci sei? Stavo dormendo! E dorme, abbiamo... È normale, dorme pure lui. Andiamo avanti. Però immagino che si risveglia così. Chiaro. Tu lo chiami, stavo dormendo! So che vuoi parlarmi di una cosa che preme. Ho un argomento che preme, come sempre. Questo è quello che mi preme di più, proprio qui. Tu non puoi vederlo, ma sto premendo proprio qua. Sì. Allora, parliamo del comune di Livigno. Sì. Comune di quasi 6.000 abitanti, quindi abbastanza abitanti. In provincia di Sondrio. Sondrio? Sì, in Lombardia. Allora, stiamo parlando di questo comune di Livigno. Il comune di Livigno gode dello status di zona extradoganale. Maledizione. Cioè, lui, il comune, non paga delle tasse, delle imposte statali, e in più non ha l'IVA. Cioè, stiamo parlando di un paradiso fiscale. Cioè, praticamente un posto da sogno. Sì. Hai presente i paradisi fiscali, le Cayman, quelle isole lontanissime? Esatto. Noi ce l'abbiamo qua, in Lombardia. Andiamoci su. Tra l'altro costa tutto la metà. Diciamo, per esempio, i maggiori beni sono i tabacchi. Sì. Facciamo un esempio, il pacchetto, la marca di sigarette più famosa, la sappiamo. Sì. La M. Sì. Costa 4. Ah, a proposito, non fumate, fumare fa male. Ah, io fumo, però non fa male. Io no. 4,50 euro. Sì. Vedo che il DJ apprezza l'inno non fumare. Apprezza. Diciamo che costa 4,50. Tu lì lo paghi 2 euro. Perché non c'è l'IVA, pochissimo. Infatti, la gente potrei quasi iniziare a fumare. Bravo. Grazie all'Livigno. Potresti fumare e cominciare a fumare. Beh, là, ti compri una stecca e cominci a fumare, pagando pochissimo. Vabbè, ma questa cosa non è. Oppure, che ne so, un acquisto di 300 euro che paghi qua in Italia, riguardo la tecnologia, 200. Io dico, è normale che ci sia un posto del genere. Allora, non è normale, perché il motivo per cui. Gode di questa zona extra doganale è perché un tempo, stiamo parlando circa del 1538, sembra la questione della vecchia, bravo, 1538, questo comune era, durante l'inverno era praticamente isolato, è chiaro, e quindi non esisteva nulla. Il re la sua maestà aveva deciso di agevolarli, appunto. Per colpa del re questa gente... La questione è che queste leggi sono state prorogate nel tempo fino ai giorni nostri. E questi qua, nonostante adesso siano collegati col mondo, perché poi, figurati, senza IVA diventi ricco, ma proprio i soldi da qua, il sindaco delle vigne... Ma insomma, qualcuno ci andrà da questi qua a far capire la situazione. No, la gente va soltanto a... acquistare e a tornarsene con tanta di quella roba, e tu neanche l'immagini, perché tu devi pensare che là fuori, quando esci da Livigno, c'è anche un controllo a quel punto, la dogana. Però che cosa puoi controllare? Cioè, abbiamo il contrabbando a casa nostra, praticamente. C'è gente che compra stecchi di sigarette, poi è allucinante. Per colpa di una vecchia legge. Adesso è collegatissima. Il re. Stiamo parlando del re. Adesso è collegatissima. Io domani vado a Livigno, vado a comprarmi tipo 40 stecche di sigarette. Se tu ne vuoi una, io te la faccio a buon prezzo. Vabbè, potresti incominciare. Ho incominciato un po' di tempo fa, poi ho smesso, quindi non è che per colpa di Livigno che non paga l'IVA. Allora, vabbè, però diciamo che secondo me è un bel paese. È un incentivo al contrabbando. Sì, al contrabbando e basta. Non ci sono più. Niente, le notizie sono queste. No, posso dire soltanto dimmi una cosa. Ah, come no, se vuoi andare oltre. Una cosa molto divertente riguardo a Materazzi, dimmi, il giocatore, che ha indossato la maglia di... la maschera di Berlusconi al derby, perché l'Inter ha vinto il derby contro il Milan, esatto. Per festeggiare ha indossato la maschera di Berlusconi. Simpatico, a me è piaciuto, sì, è stato un bel modo di festeggiare. Sì, è carina. Ha ricevuto un po' di critiche, vabbè, che pesanti, però che pesanti, mamma mia. La cosa veramente divertente è che c'è stato qualcuno che ha fatto da paciere tra Berlusconi e Materazzi. Ma perché si è arrabbiato Berlusconi? non è che si era arrabbiato, però questo ambasciatore, diciamo, ambasciatore, chi era questo portatore di pace? Questo ambasciatore ha detto, vabbè, magari gliela faccio io la telefonatina a Berlusconi, così evitiamo la materazzi è violento, Berlusconi già ha avuto qualche problema, come ben sappiamo. Sì, sì. Magari si prende... Materazzi è uno molto violento. Magari si prende una mazziata da Materazzi. Entra tipo negli stinchi, sì, gli spezza tutte e non due. Non è buono. Indovina chi era? E che ne so, un uomo buono comunque. Il nostro ministro della difesa. Ignazio la Ignazio, no. Satana. Allora, tu adesso immagina una cosa. Io riesco a immaginarlo. Che scende da una macchina blu, da un'auto blu, ok? In fiamme, perché quello è... In fiamme. Sì. Con dietro tutti questi personaggi della security grossi, con l'auricolare, libero, possiamo andare. Perché lui è uno simpatico. Va lì e fa l'incontro diplomatico per salvare la situazione. Perché lui è un vero diplomatico. Cioè, una cosa incredibile. Cioè, per una baggianata abbiamo mosso i ministri. Cioè, ti rendi conto? Tra l'altro, la cosa simpatica che finalmente ho visto Berlusconi alto, perché hai visto Materazzi è un bell'uomo, che cioè, Berlusconi alto sarebbe più bello. Poi Berlusconi, bravo, dice anche apprezzato comunque, la goliardata. Potrebbe mai dire qualcosa. Voglio vedere se non c'era Ignazio la Russa, che faceva cosa succedeva. Faceva così, andava iniziano in spogliati a cadere le bombe a Milano. Sì, sì, Materazzi per aria. Poi non si capisce la situazione di Milano, sei interista, un milanista. Vabbè, è suddivisa, dai, è suddivisa. Però Berlusconi alto me l'ha piaciuta. Materazzi ha voluto far vedere prima e dopo la cura. Esatto. Prima e dopo la cura. Vabbè. Dai, adesso è arrivato il nostro momento musicale. Il nostro momento musicale. Allora, ci facciamo ascoltare. Ne abbiamo parlato. Li abbiamo nominati più 100 volte. Loro sono i Revenants Quartet, sì, gruppo di nostri amici. Stanno avendo un grandissimo successo a Napoli. Per cui daremo sul blog i contatti per andarli a seguire. Certo, ovviamente su MySpace. E stiamo organizzando qualcosa di molto particolare. Cioè? Siamo organizzati. Non vuoi dirmelo? No, non anticipiamo. Vabbè, lasciamo non così, lasciamoli nel... E allora, Revenants Quartet con Teddy Bear. Vai così. We'll be right back. proprio bravi questi ragazzi. Sì, mi sono piaciuti. Tra l'altro dovevano essere ospiti in puntata oggi, però per un po' di problemi, insomma, non li abbiamo qui con noi. Vabbè. Sicuramente la settimana prossima. No, ma assolutamente. Perché io voglio parlare. Anche perché bisogna parlare con loro, bisogna fare un'intervista. Perché stiamo organizzando anche una cosa piuttosto particolare. Vanno conosciuti. Vanno ascoltati. Anche. Allora, Ricca, devo farti una confessione importantissima. Mi devo preoccupare? No, non ti devi preoccupare. È una cosa molto bella, una cosa che farà schizzare gli ascolti della nostra radio. Però e tu sai, no, che noi facciamo il momento economia. Sì, sì, come no, a Sky, cioè, tu fai il momento economia con il tuo personaggio. Diciamo, uno sponsor di, da, di, non è vero, di questa è... persona terribile. Da, terribile, ormai è il nostro personaggio. Ascolta, ho fatto un paio di telefonate stamattina. Sì. Ho chiamato persone che dovevo chiamare, gente importante. E abbiamo finalmente, finalmente un ospite serio. Veramente? Sì, sì, una persona che almeno fa l'economia. Cioè abbiamo scavalcato Ascanio Mummolo. No, ho scavalcato io te. Non è che abbiamo scavalcato Ascanio Mummolo. Stronzo. Ho fatto le cose. Sono il direttore della radio, sia chiaro. Vabbè, quindi... però questo è proprio mobbing proprio. Potrebbe essere. Potrei denunciarti. Comunque, dimmi chi abbiamo qui con noi oggi. Sono curioso, diciamo. È un personaggio di quelli proprio. Contribuisce a fare l'Italia, a creare l'Italia ogni giorno. Muoio dalla curiosità. Ora, non so se è una cosa positiva o una cosa negativa, però è un personaggio decisamente particolare, diciamo. Chi è? Purtroppo non possiamo dirlo. E perché? Non possiamo dirlo perché è un personaggio molto molto molto potente. Ah, è conosciuto? È grande, grande, grande. Grande? Grande, pensa che... Da 1 a 10 quanto è grande? In questi momenti di crisi anche 11, 12. Però, cioè, voi è un personaggione. Sì, uno di quelli che fa politica. Ah, ecco perché non possiamo nominarlo. Fa politica. I tuoi tentacoli sono arrivati fino... Conosco delle persone che conoscono altre persone. Pensa che alcune dichiarazioni incredibili di questo personaggio sono diventate famosissime. Tipo, dimmi. Le poste non falliranno mai, i governi passano, le poste restano. Mamma mia, cioè, le poste restano. Poi lui notoriamente... Le poste restano. Notoriamente sta un po' più di là, diciamo alla destra. Ah, alla destra, dici persona... di là. Di là, sta di là un po' di là, a destra. Il governo attuale, quindi. Esatto, però è un personaggio che dà un po' di problemi anche a loro, ogni tanto. Poi qua bisognerebbe fare delle analisi politiche, non vabbè, ci competono, no. Però... Per esempio, parlando di Marx... Lui è un economista, cioè una persona che lavora in questo campo. Dice che secondo lui Marx è un genio. Magari la gente lo leggesse. Adesso dice che a sinistra ci sono i Simpson. Ci sono i Simpson. Sì, questo ho detto, questa è la sua dichiarazione. E anzi, che a sinistra hanno i difetti, ma non i pregi dei Simpson. Ma che c'entra? Poi quali sono i pregi dei Simpson? Sono gialli, hanno quattro dita. Ah, però sono simpatici almeno. Ah, non sono simpatici a sinistra, quindi. Secondo questo personaggio, no, però simpatici. È uno che ha strizzato l'occhio più di una volta. Probabilmente ha solo. È bipartisan. No, forse ha solo strizzato l'occhio. Ammicca. Comunque, ce l'abbiamo qui. Io non so come chiama. Sì, proprio qui in studio. È lì dietro, sta arrivando. Ah, e facciamolo entrare. Solo che io non so come chiamarlo. Se lo chiamiamo onorevole. Chiamiamolo onorevole, tanto perché lo chiameranno molti così, visto che mi diceva l'altro il governo. No, è assolutamente una persona. Chiamiamolo onorevole e proteggiamo la privacy che lui ha chiesto. Perfetto. E vabbè, io sono contrario perché io sai che amo Ascanio Mummolo, la sua semplicità, la sua veracità. Ho capito, ruspante. Però se qua vogliamo fare un programma serio, si fa un programma serio e si chiamano le persone serie. La solita cosa che vuoi fare l'intellettuale, l'intellettualoide, io leggo Marx, non guardo i Simpson. In un certo senso sì. Vabbè, in un certo sempre senso. Tu, sempre. Comunque, abbiamo qui il nostro onorevole, il nostro onorevolissimo. Lo vedo. Ah, che l'ho personaggio, visto, personaggio. Lo riconosco, devo essere sincero, lo riconosco. Salve onorevole, salve. Come sta? Salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ah, assolutamente irriconoscibile, tra l'altro. Quindi... Abbiamo camuffato la voce, ragazzi. Sì, perfetto. Perfetto. Come sta onorevole? Va tutto bene, ma grazie. Si può mai dire come sta onorevole? Vabbè, noi abbiamo avuto modo di parlare un po' prima, quindi... Vabbè, facciamo queste domande onorevole. Possiamo darci. Mi stavo chiedendo quando mi avreste fatto parlare, voi siete abbastanza prolissimi, ma non c'è problema. Perché ci dispiace. Possiamo darci del tu oppure... Naturalmente, io le do del tu, lei mi dà del... Io lo chiamerò onorevole, perché sono sempre contrario a questa cosa, quindi mi dispiace. Chiamiamolo onorevole. Noi siamo molto contenti di averla qui in trasmissione. Siamo anche molto, molto, molto onorati ed emozionati di avere finalmente un personaggio. Un economista vero. Un economista vero. Con i titoli. I titoli serie. Ci sono delle questioni che ci piacerebbe trattare. Innanzitutto siamo sicuramente i primi che le fanno questa domanda. Ma sì, questa crisi, quando ne usciamo? Guardi, a giudicare dalle persone che mi hanno intervistato finora, da quando è iniziata la crisi, sono sicuro che è molto difficile trovare una domanda che non mi hanno ancora fatto. Comunque, lei mi dica. Lei è molto simpatico. E molto noi simpatico. Quindi, non ci sono domande, non le abbiamo fatte, le facciamo la classica. La crisi. Cosa ne pensa? Come è messa l'Italia economicamente parlando? Questa economia dove va a finire? Come ne usciamo soprattutto? Allora, una precisazione necessaria. L'economia italiana è differente dalle altre economie che sono state travolte da questa crisi. Per molti aspetti che non sto qui a ricordare, abbiamo un'istituzione bancaria che è risultata essere più solida rispetto alle altre. Le banche solide abbiamo? Abbiamo un sistema bancario che non ha risentito molto della crisi che arrivava dagli Stati Uniti d'America, anche perché per dirla semplicemente, noi siamo un popolo di risparmiatori, non siamo un popolo di persone che investono risparmi. A me lui piace perché è serio e soprattutto è appassionato quando parla. Sì, è... sento il calore nella sua voce. Sì, ci dispiace di averla interrotta. Ci dispiace. Siamo un popolo risparmiatore. No, figuratevi, sì. Se volete bere un caffè nel frattempo. Non abbiamo caffè perché purtroppo dove registriamo io. Anzi, grazie signor onorevole per questo assist che mi dai. Io proprio da dentro mi lamento col mio capo che è napoletano perché registriamo da Napoli e non ha il caffè a casa. Non ha il caffè a casa. Voi vi rendete conto senza caffè? Senza caffè, ma come si può? Una vergogna, tu. Non hai il caffè a casa. Diciamo che è un fatto. Posso dire una cosa? Sì. Posso dire una cosa? Allora, noi qua abbiamo un personaggio serio. Ho capito, ma ha un assist, io l'ho preso. Questo si arrabbia e conoscendo il tipo ci manda anche. Sì, sì, sì, io l'ho visto bello arrabbiato qualche volta a dire. Parolacce. Ma non c'è nessun problema, io ho solo l'euro fra 21 minuti, potete cazzeggiare. dove deve andare? Io dove sono andare, felice di fare, non posso dirlo esplicitamente, ma vi sono impegni istituzionali abbastanza rilevanti che richiedono la mia presenza. Diciamo che l'Italia deve andare avanti e lei deve dare una mano all'Italia ad andare avanti. Certamente. Sempre così, appassionata. Le vogliamo così, sento proprio questa passione nella sua voce, questa voglia di parlare. Questa dinamicità. Va bene. Una sola domanda. Dimmi. Lei che comunque è dentro, no? Ma questa questione... Meglio dentro che fuori. È stato il mio mantra per tutta la vita. Sì, sì, sì. Meglio dentro che fuori, sai. La questione Berlusconi-Fini. Berlusconi-Fini. La questione Berlusconi-Fini. Cosa sta succedendo? Ma guardi, non c'è alcuna questione Berlusconi-Fini. No, c'è. Mi scusi, c'è. C'è un presidente del Consiglio che guida una maggioranza. C'è un presidente della Camera che fa parte della stessa maggioranza che cerca di rivestire il suo ruolo nel modo più istituzionale possibile. Naturalmente quando si rappresenta da una parte il Parlamento, dall'altra il governo, è lecito, è giusto ed è normale che vi siano anche dei momenti di incomprensione, ma questo deriva dal bilanciamento dei poteri, è una cosa assolutamente naturale e auspicabile. Guarda, devo essere sincero, sono un po' spiazzato dalla qualità dell'intervento. Io sono abituato a Scagno Mumolo che sì. Sproloquia a destra a mano. Ma diciamo, ce la vorrei anche vedere a lei se le televisioni di Berlusconi avessero detto che minacciavano di mandare in onda le immagini di lei che faceva le corna alla moglie, cioè, voglio dire, c'è anche una questione personale. Ma io non sto toccando. Tra l'altro, lei è stato più volte offeso. Come fa a mantenere questo rapporto con una parte lei politica? È famoso per il suo aplomb. Cioè, come fa? Perché in politica si azzuffano, si dicono parolacce, e invece là, bello tranquillo. Ma poi l'attaccano, l'hanno accusato di voler fare il Robin Hood un po' di mesi fa. Ma guardi, sono tutte cose inventate dai giornali che non hanno niente di cui scrivere. Se dovessero scrivere come vanno le cose, lo dico perché appunto ci sono dentro, farebbero due coglioni così a tutti i lettori. Quindi devono inventare, devono scrivere di retroscena che non esistono, devono montava e la cacciava per vendere più copie. In realtà è tutto assolutamente di una noiosità che non ho visto neanche raccontare. Infatti io ringrazio le giornaliste che quindi non fanno così, va bene. Va bene, va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. Edizione Alessio, scusami, perdonami, il telefono personale. Sì, vabbè, lasciamo perdere, ci dispiace, onorevole di questo, un attimo, rispondo, fammi rispondere un attimo, rispondo un attimo. Velocemente, possibilmente, qua non è che siamo i tuoi servizi. No, no, scusa, pronto? Chi è? Ah, si calmi, non so se è possibile. Chi è? Un attimo, non so se è possibile. Sicuro? Va bene, solo perché c'era... Sì, ok. La metto in onda, devo mettere in onda. Aspetta un attimo, la metto in viva voce. Pronto? No, allora... Lui... Senti, Frocio, allora, stai zitto! Abbassa la voce! Con calma! Stai zitto! Riccardo, dici qualcosa, sì. Fermalo prima Ascanio, di... lei mi ha chiamato perché c'è qualche motivo. Perché ha chiamato? Allora, stavo così, aspettando la vostra telefonata che viene ogni volta a rompermi i coglioni. Sì, e volevamo... Stai zitto, tu! Sto parlando con lui, non ti devi assolutamente intromettere. È arrabbiato, è arrabbiato. Brutto Frocio del cazzo! Ma stati no, sì, per però cortesia, signor Mummolo, stai zitto, stai dalla parte, no. quando sei in cudine stai, quando sei martello batti, ok, stai zitto, la vuoi fare il culo, ma perché, io la vedo molto arrabbiata, come mai questo astio, adesso spiego, stavo aspettando la vostra telefonata, mi è capitato per caso di sentire che avete invitato un'altra persona, stai zitto, posto mio. Tra parentesi, tiene una voce di merda. Secondo me. Cosa cazzo? Stai zitto! Pure tu, chi cazzo sei? Sei il suo amico trans. Stai zitto! No, è un onorevole. No. Questo c'è un buono. Vabbè, come parla? Cioè, se rendiamo conto, stiamo facendo parlare un cretino. Io credo. Io sa, come ti chiami? Ma lei che titoli ha per parlare? I miliardi parlano il posto mio. Stai miliardi. Zitto. Miliardi li tiene all'estero o li tiene in Italia? Li tengo ovunque, grazie a gente siamo, come lei. Le paga tutte le tasse, pertanto per sapere. E lei le paga le tasse, brutta faccia. Ma questi sono affari cinesi. Per favore, calmi. Conosco transessuali con voci più maschili del mondo. Calmi. Non ho dubbi, guarda, che lei conosca transessuale. Ahia, sì, se mi ricordo bene me ne ha passati lei, brutto Frocio del cazzo. Per favore, allora, calmi. Siamo calmi, Allora, Ascanio, qui in trasmissione abbiamo un grande economista. Grande, mo. È un onorevole, diciamo. Oh, vabbè, sì, quel titolo se lo possono comprare tutti. No, non è vero, comprare no, non siamo nel medioevo. Questo devo darvi ragione. Voi non avete idea della quantità di gente che è rappresentata oggi in Parlamento. Ma lei è uno di questi, diciamo così. Ma ha gettato un ponte per fare la pace, signor Mummolo, per favore. Un ponte. Io vorrei dialogare con lei. Se ho detto qualcosa con cui lei non concorda, me lo faccia sapere e ci confrontiamo. Si vuole confrontare? Lei cosa ne pensa? Cioè, dipende su che campo. Uno non ci deve stare più, quel Frocio di merda. Allora, quel Frocio di merda è il direttore della radio. Non è che... Cioè, lei ce l'ha qua. Tocca il radio, attenzione. Stiamo parlando di radio DJ, No, non offenda perché anche io lavoro in questa radio. Sì, lei, vabbè, però... Lei, se è ingelosito, dica la verità. Se è ingelosito, abbiamo chiamato un economista. Non è che mi sono proprio incazzato. Mi hanno proprio girato le palle. È una scenata di gelosia questa. Perché lei pensa di essere... No, perché io mi sono preso il mio spazio. Nel senso che, vaffanculo, io tutti i giovedì non faccio più nulla. No, bravo. Nel senso, per dare spazio a voi. Grazie. Anziché rubare. No, che rubare? Come rubare? Anziché andare dalle persone a dire cosa devono fare, sto qui a aiutare voi a guardare sì che questa piccola cosa va d'importo. Grazie, vi do una mano e poi voi mi tradite così. Pa, una coltellata alle spalle! No, vabbè, lei, diciamo la verità, lei per esempio si crede più preparato di questo economista che abbiamo qui, un onorevole? Ma certo! Assolutamente, allora, sì, io sono più vicino alla gente. Cerchiamo di capire. Allora, onorevole, la persona che sta parlando al telefono è Ascanio Mummolo, un noto imprenditore, non so se lo conosce. Mai sentito nominare. Presento. Buonasera, sono Ascanio Mummolo, un grande imprenditore, gente per voi, gente per noi, servono tutti. Buonasera. Aspetta, che bella presentazione che sto parlando. Lei sta parlando, Ascanio Mummolo, con un ministro. Un ministro, uno serio, uno di da studiato. Che cosa? nell'ambito economico, uno che ha studiato, uno che anche ha studiato, io ho studiato, sì, che cazzo significa? Vabbè, lui ha studiato anche all'estero, Yale, Cambridge, cioè sì, vabbè, quello serve per spararsi il CEPO, pezzo. Lei ha studiato al CEPO con Del Piero. Ah, ecco qua. Lei ha studiato al CEPO con Del Piero? Io non ho studiato al CEPO con Del Piero, mi sono direttamente comprato la laurea. Molto più intelligente, non devo neanche studiare, io sono molto più colto di quelle teste di cazzo che stanno là dentro. Al CEPU o al governo? Ovunque. Ah, ovunque. Lei è preso da questo mito di Ascanio Mummolo. Sì. Cioè, quindi lei pensa di avere argomenti migliori dell'onorevole qui che non possiamo dire il nome? Assolutamente sì. Ora, mi scusi, parliamo sempre in toni normali. Sì. Che cosa ha fatto lei oltre alla politica? Ah, ecco qua, una bella domanda. Onorevole, spieghi cosa ha fatto lei per l'economia italiana. Ma perché devo spiegare la mia vita a una persona che... Senti, brutto frocio, ti ho fatto una domanda specifica. Si calma. Con quell'aereo del cazzo, perché voglio sapere, se ha detto qualcosa con cui il signor Mummolo o Cuccolo o Frullolo... Mummolo, lo sai, perché hai dormito nei miei alberghi, sicuro. Come diavolo si chiama, ho detto qualcosa con cui non concorda. Me lo fa sapere e io lo metterò a figura... come merita, ecco, diciamo, bello, sfida. Lui ha detto che l'Italia è un popolo di risparmiatori. Lei è d'accordo? Sì, cazzo, non mi entra più una lira da un bel po'. Lei subisce quindi questo risparmio. È ovvio, io ho detto la lira cioè l'euro deve girare, se no non si cresce, non si va avanti. I mummoli non si espandono. Vabbè, espandiamoli i mummoli. Ma non è un discorso di espansione dei mummoli, è cioè un discorso di crisi, di ricchezza delle persone. Non ha niente a che vedere. Paura. Di sopravvivenza delle persone. Non c'entrano i mummoli. Sì, però se io sto a casa e dico non c'è lavoro, non c'è lavoro, non c'è lavoro e non alzo il culo e vado a vedere se c'è veramente questo lavoro. Io quest'uomo lo amo. Che così cazzo io stiamo parlando? Così io, si ragiona. Io posso dire una cosa però. Dimmi, cazzo, dimmi. Cioè, abbiamo un onorevole, ma perché lasciamo parlare un tronco? Ehi, sfroccio! Ti uccido! Calma. Vaffanculo! Si calmi, si calmi. Perché mi ha chiamato, Alessio, mi ha chiamato. Sto stronzo che tiene l'orario dalla mattina alla sera perché non si alza dalla sedia. Non sa neanche che significa vivere. Ascanio. Alzarsi a mezzogiorno per andare a lavorare. Alzarsi a mezzogiorno per andare a lavorare. Onorevole, lei ha conosco, conosco persone che si alzano alle 6 del mattino. E quelli sono dei cretini. Quelli sono dei cretini. Alle 6 del mattino, sì. Tipo il nostro commentatore, Fabio il mitico Fabio, che sveglia 6 del mattino. Sono dei cretini, pure lui. Beh, ovvio, che vai a fare? A coltivare le verdure, le cipolle. È un lavoro. Sì, allora. Allora, facciamo così. Velocemente, un messaggio agli italiani. Prima dal nostro grandissimo ospite. Prima dal nostro grandissimo ospite, signor Mummolo. Il nostro grandissimo ospite non è lei. Per favore, non è lei. Mummolo, lei ha fatto il ministro, signor Mummolo. Mummolo, t'aiuta, È ministro, lei? Non ancora. E allora stia zitto, per favore. Dai tempo al tempo. Alessio, tu stai rischiando, giochi non ho fuori, parole, non ho parole. Fuori. Allora, un messaggio agli italiani da parte del nostro onorevole. Sarò breve perché il tempo è tiranno. C'è stata una crisi, non dipende da questo governo. È colpa sua. Il governo attuale ha affrontato la crisi nel migliore. Una merda. No, signor Mummolo, lo lasci parlare. Ma io sento, porca puttana, porca troia, se non mi fa parlare. Madonna, che voce di merda che tiene quest'uomo. Non è possibile. Ascania, portami un tè, subito. Per favore, cambiamoci. Io pensavo di essere venuto in una radio seria. Mi rendo conto che però siamo degenerati in falsa. Io ho degli impegni istituzionali. Sei il signor Cuccolo Fruffolo. Frocio di merda! Mi chiamo Mummolo! Hai dormito nei miei alberghi, sicuro! Perché tutti hanno dormito nei miei alberghi! La prossima volta che vieni, ti trovi un letto in fiamme! Come ti chiami, Frocio? Signor Cuccolo, se avrà la bontà e la gentilezza di scrivermi nella mia casella di posta. Ma che scrivi in casella? Ma come parla? Questo ne diamo conto! Signor Mummolo, scrivermi casella di po'. C'è! È pazzesco! Ascania! In te! Signor Santo! Anche le sigarette, dai, muoviti! Signor Mummolo, per cortesia, facciamo finire e chiudiamo questa. Mi sta partendo un nembolo. Chiudiamola. Un saluto da parte. Ringraziamo l'onorevole che è stato assolutamente qui. Assolutamente, grazie. Ringraziamo. No, grazie a voi, mi sono fatto una pancia di risate come non me la facevo da. Sì, si è sentito. Dai tempi della caduta del primo governo Prodi. Oh, perfetto. Che risate. come fa ridere quest'uomo, Dio santo. Io con lei non ci parlo. Conti, ma non va bene, magari proveremo a metterli in contatto in la prossima futuro volta. Per cercare di distendere un po'. Per favore, a Scania stiamo salutando. Non aspetto salutala questa testa di cazzo. No, basta. Una alla volta. Il signor onorevole, mi stava sfuggendo il nome. Sì. Saluta. Mummo. Bravo. Mummolo, saluti pure lei, per favore. Saluti pure lei, dai. Buonasera, sono Ascario Mummolo, Nasco a Milano, e vi volevo salutare tutti, e se volete un futuro migliore di questo qui, di queste persone, mi raccomando, ricordatevi di Mummolo. Ma guarda lì al Q. Mi sembra corretto. Non rispondi. Signor Mummolo, mi sembra corretto, perché lei pure prima ha insultato, e quindi il mio ospite è... Non risponda, saluti il pubblico e basta. Scusate un attimo, Giacomo, vai fuori la radio. Buonasera. Che cosa ha detto? Niente. Chi è Giacomo? Chi è Giacomo? No, nessuno, non si preoccupi. Sto salutando pure. Volevo dire... Velocemente. Ricordate... No, Alessio, per favore, no, sei rischiato. Perché l'onorevole deve andare via. Dai, salsa. Senti. No. Te lo sto dicendo in maniera molto garbata. Sì. Tu non sai con chi hai a che fare. No, lo so. No, non lo so. Questa sai. È una minaccia, per la corte di Non è una minaccia. Non è una minaccia, è semplicemente un avvertimento. Vabbè. Io vengo lì e ti spacco il culo. Basta, saluti. Basta, dirci buonasera, non votate quella gente di merda lì, votate me, mi raccomando. Io sono uno con i giovani, Jack. Sono con bene, voi. Anche per i giovani. Evviva Corona. Evviva tutti. Evviva Corona. Vabbè, forse va bene, la sentito. È colui che ha detto prima. Le rivoluzioni. Io capisco i giovani, capisco tutto. Sì, va bene, Mummolo, arrivederci, va bene, grazie. Basta. Arrivederci. Viva il Papa. Arrivederci. Mia mamma mia, Alessio, che mal di testa mi hanno fatto venire questi, no, te lo giuro. Io sono contento di avere gli ospiti del programma, però subito. Ma che macello, mamma mia. Se sembrava una puntata di Barbara D'Urso la domenica. Sì, cioè, terribile. Ringraziamoli tutte e due, però speriamo di non averli mai più in trasmissione. Non spero questo. Speriamo un po' più di calma in generale nel mondo. È anche qui, quindi. Berlusconi sta facendo il partito dell'amore. È l'amore tutto intorno a noi. Così magari riusciamo a tranquillizzarci un po' tutti. È l'amore. Non guardare così che poi sono costretto a baciare. No, non mi baciare che non mi piacciono le donne. Allora, adesso parte la mia bellissima e seguitissima rubrica dei Darwin Awards. Eccola. La sigla è bellissima. Bellissima, eccezionale. Vabbè. Allora, siamo in Svizzera. Sì. Abbiamo uno chef di un hotel. Allora, lo chef di un hotel si è tagliato un dito infilando nel tagliacarte. Ah, doloroso. Dolorosissimo. Sì. Quindi ha imprecato in tutte le lingue che si parlano in Svizzera, svizzero, tedesco, austriaco, italiano, di tutto. Tutte le lingue. E che cosa fa? Ha chiesto risarcimento alla compagnia assicuratrice. E allora cos'è come funziona in questi casi? Viene mandato un perito. Certamente per controllare che non sia stato un errore suo. Negligenza. Allora sì. Che fa? Arriva il perito, tutto bello da adesso. Ah, questo è stato lui, ha sbagliato lui. Vabbè, non parlava così, credo, però crea bene l'immagine. Ha sbagliato lui. Allora va a controllare. È un perito di siciliano. E vabbè, per rendere bene l'immagine della sua, tipo, un po' atteggiato, diciamo così. Va là, controlla, va. Sac! Si è tagliato pure lui il dito. È un cretino. Si è tagliato pure lui il dito. Però ha dimostrato che non ha negligenze. E quindi lo chef è stato pagato. Però quello ha perso un dito. Cioè... due dita. Hanno perso entrambi le dita per dimostrare questa. E ringraziamoli. Non c'è limite. No, alla stupidità umana non c'è limite. No. Io ringrazio il mondo perché si eliminano gli stupidi fra di loro. E niente, la puntata è quasi al termine. Sì. Partiamo col nostro momento dei saluti. I saluti così. Chi dobbiamo salutare? Allora, salutiamo innanzitutto tutte le persone che ci aiutano nei nostri programmi. Tutte. Quindi salutiamo anche Fabio Milano. Perché c'è l'amore. Perché c'è l'amore che ci c'è l'amore, grazie Fabio. Fernanda Teta che lavora tanto alla nostra grafica. Però effettivamente quando viene qua in trasmissione, Fernanda, non fai niente. L'irreprensibile Fernanda Teta. Con un cognome bellissimo. Rischi tra l'altro. Ti soffi il naso una continuazione. È allergica ai gatti. C'è due gatti che stanno ovunque. Sì, e Eleonora Minucci, che è la nostra voce femminile. Salutiamola. Cioè, noi abbiamo una voce femminile. Tu hai una voce femminile. No, tu hai una voce femminile. Tu hai una voce femminile. La mia voce non è molto femminile. Anzi, io parlo molto così. Tu hai sicuramente una voce più femminile della mia. Ti squillante, non è femminile. Vabbè, c'è qualcuno che ha già detto qualcosa. Io ho una voce femminile. Sì, perfetto. Chi ha detto cosa? Lo sapevo, non ci provare. Sto scherzando. Ah, grazie. E sono poi a trovarvi a casa tutti quanti. Salutiamo veramente le persone. Tipo Giovanni che ci scrive: complimenti vivissimi per la trasmissione, la seguo con interesse. Che bello. Allora Giovanni, o sei un cretino o sei un professore. Perché? Sto scherzando. Dai, mite. Mica si offende. Complimenti. Non si offende. A me piace moltissimo. Complimenti vivissimi. Non lo sentivo quando chiamavano Mike Buongiorno al suo programma, quello classico. Sì, è bello. Complimenti vivissimi alla trasmissione. E lui rispondeva: voilà, voilà, grazie. Io sono molto contento. Anche io, grazie. Ciao Giovanni, un saluto. Continua a Altre persone da salutare sono le persone che ci hanno commentato l'ultima puntata, la puntata scorsa. Lucia, una ragazza che è in Erasmus a Parigi, a cui io ho risposto già sul blog, ci scrive: bella bella la poesia, complimenti per la radio, mi piacerebbe essere dei vostri. Sembra proprio una di quelle idee che ti girano per la testa e poi cominci a crederci così tanto che diventa vera. So quanto impegno ci vuole, ma certo sarà anche divertente. Vi seguo, bisù da Parigi. C'è l'amore anche a Parigi. Sì, e io le ho detto che praticamente stiamo cercando di creare una cosa un po' particolare, per cui la gente potrà partecipare. Sì. Stiamo facendo una rivoluzione qua, rivoluzione culturale. Sì. Stiamo organizzando. Salutiamo il nostro solito ormai ricorrente Zell'Eagle. Allora, Zell'Eagle ci ha risposto. L'altra volta dicevo: ma io lo conosco. Tu lo conosci? Sì. Ah, vabbè. Mi sono divertito a vederti impazzire. Ah, ok. Comunque questo ragazzo si chiama Carlo Cataldo, lo salutiamo. E questo è un nick, un nomignolo. Sì, assolutamente. E comunque ci porta anche a Roma. Sei Golzello, poi, sì, per la realtà. La gente è pazza, lo sappiamo. Sì. Ci saluta la Roma, dalla. Sì, lo salutiamo e... Ah, bello. Oh, diffondi il verbo qua, Roma. Alla Roma. A te, ti aspettiamo. Allora, dalla Roma. Andiamo avanti. La persona da salutare Sasi, che ci ha aiutato. Non vogliamo svelare dove, ma ci ha aiutato in uno sketch oggi. Sì. Ci ha aiutato in uno sketch oggi. Salutiamo Sasi e non diciamo ancora chi è. Non diciamo è ancora bello, chi è. Perché poi tornerà. Piano. Comunque è un gran bel personaggio. Salutiamo. Sì, abbiamo altri saluti da fare? Ma le persone, i soliti cretini che ci contattano. No, non mi dire ancora. Registriamo la trasmissione. Devo leggere no, non me lo dire. Uno assolutamente. Sì, vai. Sono eccezionali. C'è qualcuno che ci ha scritto qualcosa di simpatico. Sì, allora Alessandro Germanò ci dava ci diceva delle brutte cose. Cioè? Non so se si possono dire le cose che ci diceva. Devi decidere. Che siamo poco innovativi. No, diciamo. Mamma mia. Stava scherzando perché mi aveva fatto una proposta riguardo. Ma noi siamo a mettere live dal vivo le cose che stiamo facendo con una webcam. Saremmo impazziti. Sì, saremmo impazziti. Poi io sono di San Biglietto. Cioè, esatto, quindi non siamo qua. Non abbiamo neanche delle belle facce. Però Alessandro, ti promettiamo che dalla prossima volta cerchiamo di trovare una soluzione. Anche perché è difficile scegliere di mettere la tua faccia davanti. Visto? Cioè, anche la tua c'ho qualche. Sì, ci vogliamo bene, c'ha l'amore. E salutiamo comunque sempre. Ha detto: saluta la mia famiglia. Salve famiglia Germano. Ah, arrivederci, sono in famiglia Germano. Li salutiamo tutti. Vengo domenica con le paste a Roberto casa. Porzio che ancora una volta ci contatta, che fa parte della squadra, e noi diciamo: Roberto, devi venire in trasmissione a farci le basi musicali in diretta. Abbiamo bisogno di te, ti stiamo aspettando, we want you. E insomma basta, finito. E allora ringraziamo gli spettatori, ringraziamo tutti perché siamo delle persone sincere e cordiali. Va bene, potevi anche essere un po' più virile, usare il testosterone in questo caso, non gli estrogeni in questa frase. Dopo mi stiri una camicia, ho una spiccata sensibilità femminile, spiccata, mi sa che sei in fase premestro, cioè a quanto pare. So che sei fidanzato e sono anche felice che tu abbia il coraggio di esprimere. Ho trovato questo. L'amore, lei è lontana però. Sono felice che tu abbia il coraggio di mettere 420 e fatto outing della tua storia lesbica. Io non sono contrario, però sono felice che tu abbia fatto outing così. Molto e niente, bene, molto finiamo bene. Con siamo una trasmissione culturale. Sì, siamo diciamo culturalissimi, siamo aperti tra l'altro. Sì, sì, sì. E un po' come la professoressa di prima. Anche lei è molto aperta. E salutiamo con il nostro motto: siate curiosi, mi raccomando. Siate curiosi. Siate sempre, curiosi. Sempre. Ciao. Radio 2010, mi sa detto lo stivale, Riccardo Cremona, Alessio Strazzullo e il nostro mitico DJ. Ballate a tempo! Ciao, alla belli. Prossima, alla ciao. Prossima. Potascanio. Dieci.